10. Alex e Joe. Quando escono da scuola, Alexandra e Giovanna seguono Tozzi e De Belli. I due ragazzi prendono un autobus e vanno in un negozio di videogiochi. Alex e Joe entrano in una pasticceria di fronte. «Che cosa volete, ragazze?» domanda la commessa del negozio. «Due paste con il cioccolato», dice Giovanna. Alex e Joe aspettano nella pasticceria. Mangiano anche due paste alla crema. «È bello fare le investigatrici», dice Alexandra. Dopo qualche minuto, Tozzi e De Belli escono dal negozio con una scatola. È la scatola di una PlayStation, l'ultimo modello. Alexandra filma tutto con il telefonino. «Ehi, guarda!» dice Tozzi. «Ci sta filmando! Ma che fai con il telefonino?» urla De Belli ad Alexandra. I due si avvicinano alla ragazza. Sono molto arrabbiati. «Vieni, Alexandra, andiamo via!» dice Giovanna spaventata. «Voi siete due prepotenti!» urla Alexandra ai due ragazzi. «Non urlare, ti taglio la lingua!» dice De Belli. «Tu tagli le lingue e le ruote delle macchine, come la ruota della signora Mariella, vero?» dice Giovanna. «Certo!» ride Tozzi. Tozzi e De Belli cercano di prendere il telefonino di Alexandra. De Belli le dà una spinta e Alexandra cade. «Aiuto!» urla Giovanna. Arrivano delle persone e Tozzi e De Belli corrono via. Giovanna aiuta Alexandra. Alexandra si è fatta un po' male al braccio, ma sorride. «Joe, siamo due brave investigatrici, vero?» «Sì, Alex», dice Giovanna. Alex e Joe entrano nel negozio di videogiochi e parlano alla cassiera. «Scusi, signora, prima sono entrati due ragazzi e hanno comprato una PlayStation. Come hanno pagato?» «Con tante monete e qualche banconota da 5 e da 10 euro», dice la cassiera. «Dobbiamo chiamare subito la professoressa di lettere», dice Giovanna.